24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Una eventuale risoluzione della questione ucraina sarebbe importante per l'intera comunità internazionale, perché consentirebbe alla Russia di tornare a giocare un ruolo nelle principali questioni internazionali, che sono numerose e per molti aspetti preoccupanti. L'America e i suoi alleati daranno una mano al popolo ucraino nel suo percorso verso una piena democrazia. Imporremo alla Russia i costi per la sua aggressione. Chiediamo agli altri di porsi con noi dalla parte giusta della storia. Barack Obama, presidente degli Stati Uniti d'America. Il fatto che l'ultima tornata di sanzioni sia stata imposta dopo il raggiungimento del cessate il fuoco dimostra ancora una volta che Washington si approfitta della crisi ucraina per alimentare la propria leadership nell'area atlantica. Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista geopolitica Limes. Abbiamo sentito che il clima è caldo. Il 26 ottobre ci saranno le elezioni in Ucraina. Vincerà Poroshenko? È probabile, ma il fatto che vinca le elezioni non significa che controlli l'Ucraina. Ecco, l'Ucraina... che conseguenze possono avere le scelte elettorali nell'est dell'Ucraina, sull'Ucraina? Potranno, intanto bisogna vedere se si faranno le elezioni e in che modo si faranno. Sì. Immaginare che le elezioni possano riunificare l'Ucraina mi pare piuttosto utopico. Quindi ci sono molte più probabilità che si arrivi a una confederazione in Ucraina? Sarebbe la soluzione più logica e più pacifica, forse troppo logica e troppo pacifica. E il rischio qual è? Che continui una guerra? Il rischio è che la guerra, che per il momento è congelata, riesploda, perché vi sono tanti gruppi e tante fazioni che sono abbastanza fuori controllo, sia da parte russa che da parte di Kiev. Ma hanno avuto effetto gli incontri di Milano, Caracciolo, secondo lei? Secondo me sì, nel senso che Poroshenko e Putin si capiscono e hanno assunto una linea abbastanza pragmatica. Il problema è che non so fino a che punto Poroshenko controlli l'Ucraina e non so fino a che punto Putin controlli i ribelli. Ecco, l'Europa sembra paralizzata di fronte alla questione ucraina, anzi è paralizzata. La nuova Commissione europea può darsi che esprima una posizione più chiara, più netta, più autonoma? Su queste cose la Commissione europea non ha nulla da dire, sono i grandi paesi che decidono e i grandi paesi sono abbastanza divisi, in particolare la Polonia, la Svezia e i paesi baltici sono per una posizione decisamente antirussa, l'Italia e altri paesi sono invece più comprensivi verso le ragioni di Mosca e la Germania un giorno da una parte e un giorno dall'altra. Ecco, la Mogherini, prima di essere nominata alla Commissione, era stata accusata di essere troppo filorussa. Questo è un elemento, appunto, nella logica di quello che sta dicendo, negativo nella possibilità per l'Europa di avere una posizione comune? Non è la Mogherini che stabilisce naturalmente quello che fanno i tedeschi o i francesi. In ogni caso, una Mogherini italiana diceva delle cose, una Mogherini europea ne dice delle altre. Quale sia la vera Mogherini forse conviene chiederlo a lei. Neanche un accordo finale tra Putin e Poroshenko potrebbe risolvere il problema dell'Ucraina? Alla fine saranno le forze sul terreno a decidere, al di là di Putin e Poroshenko. E la cosa più importante è capire effettivamente chi controlla la situazione a Kiev. In questo momento mi pare che Poroshenko sia il fattore determinante, ma insieme ad altri. E gli altri chi sono? Beh, sono forze per esempio come Yatsenyuk, come il primo ministro, come altri gruppi diciamo più antirussi o più di estrema destra, che potrebbero cercare di spingere verso una guerra per recuperare tutto il territorio, Crimea compresa. Crimea compresa, addirittura? Beh, dal punto di vista ucraino e anche dal punto di vista di molti altri paesi, la Crimea è ucraina. Però dal punto di vista della storia russa? Beh, la storia ognuno la interpreta come vuole, di fatto oggi è russa. E secondo lei com'è? È come oggi, e domani forse sarà diversa. Non c'è dubbio che dal punto di vista di Kiev ci sono ottime ragioni per rivendicare il ritorno della Crimea sotto la sovranità di Kiev, ma mi pare molto improbabile che Mosca ma anche altri paesi accettino una guerra per la Crimea. Ecco Caracciolo, una linea pragmatica, come diceva lei, alla fine allora quale può essere? La linea più logica sarebbe quella di una neutralizzazione di una Ucraina confederata. È quella che credo alla fine potrebbe anche prevalere, ma questa fine non sappiamo se verrà fra un mese o fra un anno, forse anche di più. Cioè una fine che potrebbe anche prevedere in mezzo ancora tanto sangue. Sì, e magari altre frammentazioni dell'Ucraina che è già divisa in tre, perché abbiamo l'Ucraina di Kiev, l'Ucraina dei russi e la Crimea che è stata già annessa alla Russia. Ma i segnali di guerra fredda per l'Europa avranno conseguenze disgreganti o unificanti? Mi pare che per ora siano disgreganti, nel senso che mentre ai tempi della guerra fredda tutta l'Europa, che all'epoca era l'Europa occidentale, stava da una parte, adesso che abbiamo integrato quella che una volta era l'Europa orientale abbiamo scoperto che abbiamo idee diverse. E poi la Germania, come diceva lei, sta un giorno di qua e un giorno di là. Sì, diciamo che strutturalmente la Germania ha un rapporto forte con la Russia. Certo. In questa crisi, anche credo per ragioni personali che riguardano il rapporto tra la signora Merkel e Putin, la Germania ha assunto negli ultimi mesi una linea più nettamente antirussa. Anche se fra di loro parlano in russo, no? Ma forse questo è il problema, si capiscono troppo bene. Caracciolo, nella nostra relazione con la Russia, il South Stream che ruolo gioca? South Stream è un progetto su cui l'ENI ha investito molto a suo tempo e avrebbe dovuto significare una linea di approvvigionamento nuova e importante per l'Italia. Siccome è diventata una specie di posta in gioco strategica con gli americani e buona parte dell'Europa che cercano di sabotarla per limitare i collegamenti energetici tra Russia ed Europa, può essere benissimo che la cosa non vada avanti. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, secondo te ci sarà allora pace in Ucraina o no? Per ora no. Dopo le elezioni? Dopo le elezioni può darsi, Poroshenko è il favorito, però è vero quello che diceva Caracciolo, ci sono molte variabili interne, di politica interna, che pesano. Penso che la Crimea resterà russa, come adesso. Io lo penso. E anche l'est dell'Ucraina diventerà in qualche modo. Quindi maniera. Si andrà verso la Confederazione in qualche modo. Ma se non vanno verso la Confederazione continuano in questo enorme pasticcio creato da Washington, parliamoci chiaro, hanno sbagliato tutto sulla scacchiera geopolitica. Tu Pietrangelo cosa pensi? Io penso che non solo la Crimea resta russa, ma che Poroshenko inevitabilmente dovrà trovare un accordo con Putin. Certo. E poi penso, rispetto a quello che diceva Lucio Caracciolo, che è cambiata anche la situazione rispetto alla guerra fredda, perché è vero, durante la guerra fredda c'era un Occidente solidamente compatto in contrapposizione all'Est. Adesso invece, e l'esempio italiano ne è certo, canonico, megafono, certo. La società viva attiva di chi lavora è inevitabilmente filo russa. Poi magari le istituzioni politiche fanno invece le sanzioni, ma la realtà vera cammina sul fronte del lavoro e delle affinità. Certo. E la realtà vince sempre. La realtà vince sempre. Noi abbiamo Savick Schuster, che è un giornalista, è un conduttore di Schuster Live nella televisione ucraina. Ecco, Savick, il 26 ottobre abbiamo detto ci saranno le elezioni in Ucraina. Com'è l'atmosfera lì? Pesante. Continuano gli scontri? Sì, all'est continuano gli scontri, ogni giorno abbiamo delle vittime, l'atmosfera elettorale ma è un pochino come gli anni di piombo in Italia. Ma stando ai sondaggi, Poroshenko sembra essere in vantaggio sugli avversari. È vero o no? Sì, sì, è vero che sia in vantaggio. Non so quanto confermerà la sua popolarità rispetto alle elezioni presidenziali, ma questo è uno dei punti importanti e anche interessanti di questa campagna elettorale. Perché? Credo che non siano elezioni poi definitive. Io credo che questo nuovo Parlamento dovrà in fondo cambiare la Costituzione, cambiare la legge elettorale e poi andare alle elezioni anticipate. Quindi, credo. Dottor Schuster, una tappa intermedia secondo lei? Sì, secondo me sì. Senta, dottor Schuster, a Bruxelles, nell'incontro tra Russia, Ucraina e Unione Europea, Mosca punta a rendere formali gli accordi sul gas che sono stati raggiunti durante i colloqui a Milano. Ecco, sul gas siamo vicini a un'intesa, secondo lei o no? Ma io credo siamo vicini a un'intesa perché l'Ucraina è il cliente migliore della Russia, quindi io credo in questo caso anche conviene alla Russia di avere un accordo. Però credo che stia facendo anche un altro tipo di gioco. La Russia vuole le garanzie europee per il pagamento del debito. Quindi questo, e siccome stiamo parlando di 5 miliardi di dollari che l'Europa dovrebbe garantire, e la Angela Merkel ha parlato di questo ieri, ma va bene, siamo lì. Insomma, lei si aspetta un inverno non freddo, insomma. No, io mi aspetto un inverno molto freddo. Ah sì? Come tutta la gente. Qua, ma va bene, le dico, dottore, che se lei fa un'inchiesta in Ucraina di cosa hanno paura di più, della guerra o di un inverno freddo, 99% le dicono che della guerra. Però l'inverno freddo, anche questo si aspettano tutti. Senta, dottor Schuster, gli 007 tedeschi hanno rivelato che l'aereo maltese precipitato sui cieli dell'Ucraina orientale a luglio scorso, lo ricordiamo tutti, è stato abbattuto da separatisti filorussi. Questa rivelazione è possibile che sia vera o è una manovra, come dire, di disinformazione? No, non credo che sia una manovra. Io penso che le rivelazioni dell'intelligence tedesca parlano dei separatisti russi che avrebbero catturato questo Buk, che è un missile terra-aria, hanno catturato in una postazione ucraina. Quindi gli ucraini dicono che questo sia assolutamente impossibile perché non c'erano i Buk, no? Che sono, certo, questi sistemi portatili, no, di terra-aria. Vabbè, quindi c'è una discussione su dovere e chi l'ha preso, insomma. Sì, ma io non credo che adesso, cioè, le rivelazioni dell'intelligence tedesca saranno secondo quelle rivelazioni sulle quali si baserà tutta la discussione. No, certo. Senta, intanto è precipitato ieri un altro aereo con a bordo il presidente della società petrolifera francese Christophe de Margerie, che era diretto a Mosca. Però. Sì, no, appunto. Secondo lei è solo un incidente? No, perché noi in Italia abbiamo avuto il caso Mattei, quindi abbiamo sempre. Sì, no, io credo non sia un caso Mattei, io penso sia veramente un incidente. Senta, un'ultima cosa, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione sull'Ucraina il 24 di ottobre. Ci possiamo aspettare qualcosa? No, credo di no. Niente. Credo di no perché non niente, perché il Consiglio di Sicurezza è completamente bloccato dalla Russia, quindi io non credo che si possa aspettare qualsiasi cosa, a parte un aiuto umanitario o un'altra espressione di preoccupazione umanitaria, ma io non credo che niente di più. Niente di più. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. I nostri ascoltatori sembrano molti molto preoccupati della piega che sta prendendo il rapporto con la Russia per l'Italia, per la nostra esportazione. Dice Fabio: l'Italia ha troppo da perdere nelle sanzioni verso la Russia, miliardi di export. Anna addirittura ci scrive: penso che gli Stati Uniti abbiano forzato troppo la mano. Anna, beh, insomma, c'è una sensibilità forte. No, è molto interessante. Con Pietrangelo tutti questi mesi ci siamo resi conto, anche girando un po' per l'Italia ogni tanto, che c'è una grandissima sensibilità inusuale sotto molti aspetti. Il 63% di calo delle esportazioni verso la Russia. C'è una grande sensibilità degli italiani su questo. Come dicevi tu prima, come tu dicevi, no, ma a parte gli 80 euro, come dicevi prima, il paese reale va da un'altra parte. Insomma, è difficile accettare sempre più persone. Questa idea delle sanzioni è durissima. Sono stato a colazione con grande dirigente d'azienda qualche giorno fa e mi ha detto: sai, a me piace Putin, E io ho detto, beh, non è l'unico. Non sei l'unico. Insomma, sono, cioè, è una sensibilità, te lo dicono crescente. In maniera crescente. Crescente, esatto. Sì. E intanto noi torniamo al tema del gas, del South Stream. Davide Tabarelli, che è il presidente di Nomis Energia, nell'attuale crisi del mondo che conseguenze ha sui consumi energetici? Cioè cambia l'interesse dell'Italia rispetto al South Stream? Ma lo rafforza, ecco, il cambiamento è che è evidente che ne abbiamo sempre più di bisogno, perché le infrastrutture sono quelle che sono in tutti i mercati, anche in quelli dell'energia. Ecco, però l'Eni di Descalzi sembra aver cambiato strategia rispetto a quella di Scaroni, è vero? Ma già Scaroni era molto freddo su questo progetto, che era partiva da molti anni prima, quando la Eni era più libera dai vincoli della finanza e anche un po' della politica internazionale, in particolare quella europea e americana. Ecco, Descalzi dice che però addirittura South Stream, cioè il gasodotto che dovrebbe arrivare in Europa saltando l'Ucraina, è un investimento che non è più strategico ma solo finanziario. Beh, un altro passo indietro o avanti a seconda come si guarda? Ma sì, anche perché la Saipem è sempre un po' più staccata da questo progetto che vale 20 miliardi, la gran parte la dovrebbe fare la Saipem, perché è la prima al mondo, vale la pena ricordarlo, perché è un gioiello e motivo di soddisfazione per noi italiani. Ecco, però è un gioiello che l'Eni vuole vendere, che Descalzi vuole vendere. Ma sì, perché a chiaro di questi aspetti finanziari, della gestione manageriale di queste società, l'Eni è l'unica società al mondo che ha un pezzo così importante di ingegneria e costruzione, le altre non ci sono. Vabbè, però vuol dire impoverirsi venderla. Ma vuol dire poi venderla a buon prezzo, per un sacco di soldi da investire. Davide Tabarelli, ma l'Eni di Descalzi, alla fine, si può dire che è meno filorussa di quella di Scaroni? Ma no, perché già Scaroni si era un po' smarcato, ecco. Purtroppo o per fortuna noi siamo legati perché abbiamo dei tubi, abbiamo dei contratti, perciò nel mondo del gas i tempi sono lunghi. Ma è per fortuna o purtroppo? Ma io la vedo per fortuna, perché la quantità di gas che c'è non ce l'ha nessuno al mondo e sono nostri vicini, bene o male è il nostro futuro. Quindi lei lo vede male questo allontanarsi dal South Stream? Sì, perché ma basta che lo faccia qualcuno, in realtà sono i russi che vorrebbero farlo, pertanto che si faccia, ecco, poi sia lei. Cioè l'importante è farlo, diciamo. Assolutamente, l'importante è fare strutture, poi si faccia South Stream, si faccia Nabucco, si faccia l'Iran, si faccia i rigassificatori, chi consuma, importa molto, ha bisogno di infrastrutture. Quindi una scelta necessaria comunque la si voglia fare. Sì, perché in tutti i mercati, anche negli Stati Uniti dove i prezzi del gas sono bassissimi, i prezzi sono bassi perché c'è tanta offerta, perché ci sono tante infrastrutture. Davide Tabarelli, la riduzione dei consumi, appunto le nuove tecnologie, lo shale gas, non hanno reso in qualche modo marginale la preoccupazione per l'approvvigionamento energetico? No? Ma la rivoluzione americana è negli Stati Uniti, appunto, e tarderà a arrivare qua in Europa, tarderanno a arrivare anche i rigassificatori degli Stati Uniti per portarci del gas. Da noi abbiamo soprattutto la recessione e le rinnovabili che stanno battendo i consumi di gas, e questo certo attenua l'esigenza di fare di queste infrastrutture come South Stream. Quindi diciamo che in che direzione vada la evoluzione dell'approvvigionamento ancora non è definito. No, non è definito, però alla fine conta sempre chi ce ha le risorse e a che costi ce le ha. La Russia ne ha tantissimo, è il primo paese al mondo per riserve dei gas e ha i prezzi più bassi in assoluto, i costi più bassi in assoluto di riserve convenzionali, non di quelle nuove che ne abbiamo noi in Europa, ma ovviamente non le facciamo perché siamo troppo ambientalisti. Davide Tabarelli, secondo lei questa comunque abbondanza di offerta progressiva di energia inciderà sulle bollette oppure no? Ma guardi, il timore di problemi nel prossimo inverno con l'Ucraina e Russia ha fatto lievitare del 5,6% le bollette dal 1 ottobre di quest'anno. Dal 1 gennaio è probabile che ci sia un altro aggiustamento, ma questo è il gioco dei mercati spot. Poi nel lungo termine abbiamo avuto una caduta dei prezzi del petrolio negli ultimi 20 giorni, dovrebbe riverberarsi anche sui prezzi del gas. Ecco, ma complessivamente lei come lo vede cambiare il mercato mondiale dell'energia? Ma abbiamo avuto questa impennata della domanda per l'Asia e la Cina che ha portato più alti prezzi, ma la regola è secolare, la tecnologia ci porta più offerte e tendenzialmente prezzi più bassi. E questo da sempre? da sempre così, perché la quantità di energia che c'è in un litro di benzina, mio nonno per produrla doveva lavorare 5 giornate di lavoro duro, così tutti, insomma, non esiste nella storia dell'uomo così abbondanza di energia. Appunto. Senta, dottor Tabarelli, un'ultima cosa. Lei a maggio scorso, parlando con noi, aveva previsto per l'Europa un inverno al freddo. Andrà così? Ma innanzitutto, mi scusi la battuta, siamo già a metà ottobre e fa molto caldo. Sì, però, questo è vero. Le scorte sono altissime in tutta Europa. Ciò non vuol dire che non dobbiamo preoccuparci, sarebbe stupido, dobbiamo gestire le cose nel miglior modo possibile, dobbiamo mettere insieme tutti noi europei, non so, certe cose come le scorte strategiche e prepararci ad ogni evenienza, anche quella peggiore, come un'interruzione superiore ai 20 giorni come avevamo nel 2009, che potrebbe portare dei danni molto gravi. Ma mi sembra che sia un pochino lontana dall'ordine delle cose, no? Questo? Sì, abbastanza improbabile, ma ci sono due paesi dove transita tutto il gas che viene dalla Russia, che per noi italiani conta un terzo dei nostri consumi, che è un'area di guerra dove si stanno che sono l'Ucraina e la Russia. E la Russia. Ma lei sente, ultimissima cosa, sente odore di guerra fredda tra gli Stati Uniti e la Russia? Ma no, sento odore di tensioni storiche, siamo lontani, secondo me, scusi l'ottimismo, siamo lontani anni luce rispetto alla guerra fredda degli anni 70, quando c'era l'invasione dell'Afghanistan, quando c'era Reagan, insomma, sono cose molto diverse, gravi, ma molto più ma contenibili. Ecco, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, tu pensi che l'ENI di Descalzi, l'ENI che in fondo è quella che ci fornisce, ci procura l'energia, l'ENI di Descalzi cambia la sua strategia nei confronti della Russia? L'adatta, questo è sicuro. L'ENI, insomma, è la vera politica estera italiana, poi questo è abbastanza evidente a tutti, quindi adatta alle condizioni e al contesto. Posso dire una cosa sulle cose di Tabarelli, che si legano anche alla strategia appunto di aziende come ENI, ma non solo ENI, tutti i grandi colossi del mondo. E diversificazione e sicurezza lo sono sempre stati, ma oggi sempre di più sono un fattore determinante per chi lavora nel settore dell'energia, in particolare per le compagnie del petrolio e del gas. Pensate tutti. Che cosa succede? Certo, è un gioco scolastico, per così dire, ma se la crisi in Ucraina si aggrava improvvisamente, e se in Libia è uscita adesso un'agenzia, il capo del governo ha ordinato all'esercito di marciare su Tripoli, cioè in teoria su se stesso, no? E se in Libia l'output di petrolio crolla improvvisamente, in Iraq i pozzi finiscono in mano ci vuole poco a rimettere il mercato in un equilibrio diverso. Certo, è un equilibrio realmente instabile. Ecco, abbiamo Massimiliano da Bergamo, rapidamente. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Una riflessione un pochino più ad ampio raggio. Non dimentichiamoci che solo un anno fa la guerra in Siria e l'invasione della Siria, 2500 tonnellate di barili di greggio di proprietà del popolo siriano, e questo che interessava in realtà al cartello del petrolio americano, è stata fermata proprio da Putin, che a Cameron ha ricordato a telecamere accese in diretta in tempo reale che i cosiddetti ribelli contro i soldati di Bashar al-Assad mangiavano il cuore, veramente. Vero. Questo accadeva, è stato fatto vedere, ha fermato la guerra in Siria, l'invasione della Siria e quindi il petrolio siriano, vero interesse di quella guerra. Bravo. Quella guerra oggi Putin la paga. Bravo. Siamo d'accordo qua. Sì. Grazie Massimiliano. No, pensa che il paradosso era che avrebbe dovuto bombardare Assad, che non, e lì adesso, non si sa chi è il cattivo. Non di solo, fatto, adesso, anzi, adesso è si un sa po' molto alleato. Bene. Certo, i ribelli che venivano, alleato. I famosi ribelli che venivano ribelli, sostenuti da Berrari Levi e da tutti i liberali scamiciati. Sì, tutti quelli pubblicità. Mamma mia. Mix 24. I am good, I am grounded. Davey says that I look taller. I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. Come andiamo qua oggi? Andiamo che certe volte in metropolitana bisogna ribaltare la prospettiva, stornarsi da sé, guardarsi da fuori e vedere la trafila delle facce, le attese, la moltiplicazione delle storie, ed è lo sferragliare della vita. C'è un ponte sopraelevato a Roma che collega la stazione di Lepanto a quella di Flaminio, e lì si svela sempre un innesto che anzi come un'iniezione in vena di vita sotterranea, tutte vite sotterranee il cui destino è sempre attesa, ed è come un ballo dove l'obbligo è il paso doble, dove due si ritrovano sempre nella folla. Dolce, nella nostra pentola non so se ci sono cose così dolci, Mario, eh? Beh, noi mettiamo in cottura un po' di cose e allora vai. Poi un tuffo al cuore quando ti rendi conto che... $320 per una muta da sub! $787 di biancheria intima! L'intimo è un diritto umano inalienabile. Devi trovarti un lavoro migliore. Allora, qua i conti non tornano, eh? Shopping compulsivo, come suol dirsi. E vabbè, insomma, I Love Shopping in fondo ci introduce nel un po' meno allegro mondo dei conti. Giovanni, Pietrangelo, allora, l'Unione Europea pare che chiederà lumi e nuove misure a 5 paesi sui loro bilanci. Dentro ci dovrebbero essere anche Francia e Italia. Gli altri sono Austria, Slovenia e Malta. Beh, ma non ce n'è uno che funziona in Europa. Ma infatti è un po' tutto da rivedere, secondo me. Comunque, allora, queste sono le ultime indiscrezioni che giungono dalla Commissione UE. Che dire, il rapporto deficit-PIL per quanto riguarda la Francia, lo sapete, hanno deciso di sfondare, vanno oltre il 4 e se ne infischiano. L'Italia sta dentro il 3 e uno direbbe ok, ma allora va tutto bene. Sì, però siccome il debito è alto, doveva fare il pareggio e così via, e stiamo al 135% nel rapporto tra debito e PIL, allora c'è qualcosa che non va, loro dicono. Il problema è che la richiesta di revisione dei bilanci a Francia e Italia sarebbe ovviamente politicamente esplosiva. Beh, già è in una difficile situazione difficile da accettare anche. Però no? Io non la accetterei una cosa del genere, soprattutto l'Italia che ha fatto molti sforzi in questi anni, aggiungo. Ma c'è un aspetto, scusa, già stanno alla canna del gas, no? Cosa fanno? Anche questa un'altra dimostrazione di ottusità eurocontabile. Io ne sarei molto sorpreso, però vediamo. Vediamo un po' che succede. Navighiamo verso la storia. E li lasci cantare. Caccia Ottobre Rosso. L'altra caccia, quella che stiamo seguendo da un paio di giorni invece sulle coste della Svezia, è stata ribattezzata da Foreign Affairs, anzi da Foreign Policy veramente, come caccia Ottobre Nero. È fantastica questa storia del sommergibile russo che nessuno riesce a trovare. Hanno chiuso lo spazio, vabbè, marino ovviamente, anche quello aereo, truppe speciali stanno cercando, navi della marina ovviamente stanno cercando il sommergibile, non lo trovano, e c'è una storia altrettanto divertente del passato che ritorna molto esilarante, e cioè l'incidente Whiskey on the Rocks. Accadde nel 1981 e un sottomarino sovietico si arenò in acque svedesi vicino a un'importante base navale. Anche quella volta i russi cosa dissero? Cosa dissero? Non è nostro. Invece era loro. E insomma, è una storia che va avanti e finché ce n'è noi la seguiremo. Non è nostro. Salamino. Un 1.300.000 visitatori in Giappone, solo 15.000 in Sicilia, dove pure è di casa. Sto parlando del satiro danzante, è uno dei più preziosi gioielli del patrimonio artistico culturale al mondo, custodito a Mazara del Vallo e non riscuote il successo che trova altrove quando va in tournée nel mondo. E Nicola Cristaldi, il sindaco, deve vedersela pure con l'ottusità della regione, perché ci sono 25 addetti stipendiati dalla regione che vengono impiegati in uno spazio di 200 metri quadri, e questi 25 addetti per occupare 200 metri quadri non riescono ad assicurare l'apertura del museo nei giorni festivi. Mi sembra giusto. Allora Cristaldi a quel punto ha chiesto il trasferimento della gestione del museo dalla regione al comune. E leggo su Live Sicilia Salvo Toscano che aggiunge un altro dettaglio che la dice lunga sui danni che la regione fa alla Sicilia. E cioè che, oltretutto con la complicità del governo di Roma, ricordiamolo, che i soldi che dovevano andare alle imprese artigiane, che sono necessari per dare ossigeno all'economia, sono stati dirottati per salvare gli stipendi a chi, secondo voi? Agli stagionali della forestale. Praticamente tutto questo, come ricorda oggi Michele Ainis sul Corriere della Sera, in Sicilia, dove il presidente fa una nomina ogni 4 giorni. Insomma, è sempre troppo very well. Sarà, è troppo very well anche per te? Giovanni? Eccomi. Today è un must far parte della community. Un mio follower mi ha parlato di un corso di project financing, però io non ho quel background, cioè il mio core business è proprio un altro. Sei impazzita? Sì, sono un po' crazy di no, base. No, veramente, parli piritolla, preciso. Parlo piritolla. Sai perché? Perché l'invasione dell'inglese nella nostra bellissima lingua è uno degli aspetti che affrontano gli stati generali della lingua italiana a Firenze. Scrittori, studenti, poeti, ambasciatori, chi più ne ha più ne metta, si riuniscono per prendersi cura dell'italiano e scopriamo sempre le cose e ci sorprendiamo che anche l'italiano lo studiano nel mondo, è il quarto idioma più studiato nel pianeta, mica male, scusa, no? Siamo piccolini, il quarto, cosa c'è Pietrangelo? Peccato che poi taglino i fondi alla società Dante Alighieri, incredibile, questi sì. Intelligentoni piritolli del governo. E piritolli. Uno però, qua non so se mi troverai, se sarai d'accordo con me, che invece di portare l'inglese nella lingua italiana ha introdotto l'italiano nell'inglese, caro Pietrangelo, è senza dubbio il nostro premier Matteo Renzi. Utinche tank. He wasn't able to use the copyright license, come si dice brevetto, license in 80 adesso. Come spesso accade in questi momenti, tocca al now is the time to eat the lunch, and for the Italian politician is absolutely crucial to say now is the time of lunch. Mix 24. Allora, canzoniere. Se ho detto cosa che le dispiaccia, è stato certamente contro la mia intenzione. Mi corregga pure, mi riprenda, se non so parlare come si conviene, ma si degni di ascoltarmi, per amor del cielo, per quel Dio al cui cospetto dobbiamo tutti comparire. E così dicendo, aveva preso tra le dita e metteva davanti agli occhi del suo accigliato ascoltatore il teschietto di legno. Questa bisogna proprio indovinarla. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666 l'SMS, bolla. Ma ve frego. Non sono che l'anima di un pesce con le ali. Volato via dal mare per annusare le stelle. Difficile non è nuotare contro la corrente, ma salire nel cielo e non trovarci niente. Difficile non è nuotare contro la corrente, caro Minori e caro Buttafuoco. Questo è un grandissimo Fossati, con un pezzo straordinario che è Lindbergh. Beh, lo dedichiamo a tutti gli imprenditori italiani, perché stiamo per parlare di un tema che riguarda l'impresa italiana, a tutti quelli che si alzano la mattina, vanno nell'azienda, aprono il portone della loro impresa, salutano tutti i loro dipendenti, ne assumono altri e tutti i giorni ce la fanno. Allora Lindbergh è per loro, perché Lindbergh è il volo, è il superamento del limite. E insomma, si sono accese però le lanterne rosse in Italia. Segnalo che piano piano, più o meno in silenzio, il più grande fondo di investimento cinese, un fondo sovrano, sì, ha messo i piedi in tutti i principali gruppi industriali. Vero, sì. Hanno preso quote di Eni, Enel, Mediobanca, Fiat, Telecom, Prismian, e altri ne arriveranno, perché c'è un piano di investimenti molto molto grosso. Dici meglio imparare il cinese, eh? Beh, questo sì, sicuro. Più anche dell'inglese, visto che si sta spostando nel Pacifico, gli asset della ricchezza stanno spostando là. Sono tutte partecipazioni in minoranza, tutti dei 2%, però tu mi insegni, Giovanni, che una volta metti un piede dentro, vedi che succede, acquisti influenza e poi magari fai diventare l'investimento finanziario un investimento strategico, industriale, dunque strategico. Segnalo che la spesa del fondo finora è stata di 2,5 miliardi di euro, ma gli investimenti sono di 5 miliardi, quindi 5 miliardi. Nelle prossime settimane ci saranno, vedremo, altre, se è solo finanza, importanti o anche novità. E intanto l'ultimo salamino. Necessità di avere delucidazioni da chi è pratico di lingue demoplutocratiche. Allora, abbiamo già parlato dell'inglese. Sara, Mario, lo dico a voi, Giovanni lo preservo da questa interrogazione. Ma sto benedetto country party, che significa, che vuole significare? Country party sarà un picnic in campagna? Allora, bravo, ci sei arrivato, perché Matteo Renzi sta facendo questo partito della nazione, però per essere piritolli fino in fondo, loro lo chiamano, quelli che dicono andiamo a Chigi, no? Mamma mia. Stappando un crodino, dicono che fanno il couch party, ma giustamente si sono chiesti quelli di Antico Pelo, sarebbe il partito della campagna, perché a tradurre la parola couch dovrebbe essere campagna. E io ho scoperto che già si sono organizzati in due correnti. Allora, la corrente che vince è quella Coccodè, ed è questa. La gallina Coccodè spaventata in mezzo all'aia. Ed è la corrente maggioritaria, mentre invece c'è la minoranza, che è la vecchia guardia, che si identifica in questa. Nella vecchia fattoria. Ecco. E questi sono conservatori. E questi sono quelli di D'Alema, insomma, quelli seri. Fabrizio D'Esposito, che è un genio, lui scrivendo sul Fatto, ha spiegato anche un dettaglio che tutti avevamo dimenticato, che sto benedetto couch party è un'invenzione di Adolfo Urso e di Domenico Fisichella, ed è una cosa che portò una sfortuna totale quando se la mise in testa, che era una specie di anomalia teorica del gatto nero, quando se lo mise in testa, sapete chi? Chi? Sapete chi? Fini, Gianfranco Fini. No. Sì, come no, doveva fare quella cosa per cui predicavano anche a sinistra, bisogna andare oltre la sinistra, e Massimo D'Alema, suggerito poi da Iace Telamonio, che glielo disse, oltre la sinistra, state attenti che c'è la destra. Ma non è finita, fu Ferdinando Adornato a proporre questa discussione all'interno del Partito Democratico, che doveva essere in alternativa al cosiddetto Partito Nazionale. Alleanza Democratica. Sì, benedetto, insomma, anche da scaffa. Insomma, Carusi, Picciotti, è tutto un via vai di comunisti e democristiani. E a questo punto io, tornando alle vostre case, vi affido ad un discorso meraviglioso che fecero due celebri deputati, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Tornando alle vostre case, ricordatevi di votare bene, e si vota bene solo votando lo scudo crociato. Disgraziato, ma cosa dici? Così c'è scritto. Avrete ben capito che il nostro candidato ha voluto fare dell'ironia. È ironico sono. Per il benessere dei contadini, degli operai, degli impiegati. E anche degli usceri. Votate Partito Comunista Italiano. Francesco da Salerno per il canzoniere, prima di chiudere. Sì, pronto. Allora? Sono i promessi sposi. Giusto! Bravissimo! Per fortuna! Hai visto che i piritolli tanto tardi ancora non l'hanno fatto? È in macchina, Francesco? Sì, sono in macchina, sto arrivando al lavoro, sì. Vabbè, che lavoro fai? Io sono medico. Ah, dove? Sì. In che ospedale? A Salerno, no, lavoro nel privato io. Ah, va bene. Bene, allora, buon lavoro! Grazie! Buon lavoro e via con la canzone di chiusura. Ah, cioè no, c'ho la storia ancora. Va in onda la seconda puntata dedicata a Joseph Mengele, il medico artefice degli esperimenti atroci di Auschwitz. Con Marina Milone racconteremo questa seconda puntata. E intanto via con la canzone finale.